Io credo che, insomma, visto che sostanzialmente non so quanti dei tuoi ascoltatori siano tifosi del Lione o tifosi della Poel, ma in una sfida del genere non si poteva non simpatizzare per la Poel. Cioè. Poi io ho una teoria che ho elaborato ieri sera e che, se vuoi, ti illustro sulla inutilità dei calci di rigore. Però è stato bello così. Insomma, adesso abbiamo un quarto di finale con tutti che cercheranno di andare a pescare la Poel, con il rischio poi di sottovalutarli tantissimo e magari di avere il sorpresone, che mi sembra eccessiva, perché un conto sugli ottavi, un conto sui quarti, però è una ventata di freschezza, una bella ventata di novità. Non c'è dubbio. Qual è in sintesi questa teoria? No, io li abolirei perché nell'ottica del doppio confronto, giocare 90 minuti, immaginiamo la partita di ieri contro i nostri interessi avrebbe dovuto vedere la qualificazione del Lione, perché il vantaggio che la Poel ha avuto, cioè di giocare in casa la seconda, ma soprattutto di avere 30 minuti in più sul proprio terreno, secondo me poteva essere, come dire, sterilizzato dal fatto che se tu in 90 minuti fai lo stesso punteggio dell'andata, poi ok, il vantaggio che ti diamo è ancora 30 minuti a casa tua, però sì, se non riesci a passare, passano gli altri. Io considero i calci di rigore, per carità, una bella scarica di adrenalina, ma è questa scarica di adrenalina tu la paghi spesso con una mezz'ora di noia assoluta, sì. E siccome l'ora è tarda dopo le 23, certo, se per dare una bella ravvivata ai supplementari, io direi questa cosa qua, che se tu giochi in casa ai supplementari devi vincere, se non vinci passano gli altri, perché hai avuto mezz'ora in più sul tuo terreno.